Benissimo, allora buonasera a tutti, benvenuti a Internet Festival 2019, io mi chiamo Antonio Papolini e stasera ho il compito di presentare un libro scritto da Antonio Nicita, la mia destra, la vostra sinistra, insieme a Marco Del Mastro, si intitola Big Data, come stanno cambiando il nostro mondo, che fa parte della collana Farsi un'idea del Mulino, una collana che da molti anni fa uno sforzo divulgativo su tanti temi ostici. Io direi che Big Data non è esattamente un tema ostico, è più che altro un tema complesso e soprattutto una terrificante buzzword, cioè una cosa che ormai sentiamo in giornali, telegiornali, usata quasi per descrivere o coprire qualsiasi problema legato al futuro. Ne parleremo anche con Fabio Chiusi, che è invece alla mia sinistra. Allora, Antonio Nicita, l'autore insieme a Marco Del Mastro, è tanto professore universitario di politica economica, insegna tante cose molto difficili, ma è un'università molto prestigiose. E però, insomma, negli ultimi anni è stato soprattutto commissario della GCOM, dobbiamo dirlo, dimissionario, ahimè. Ed è un peccato perché è una persona che in tanti importanti frangenti degli ultimi anni ha spinto, per fortuna, anche il tema dei nostri diritti nella direzione giusta, mi sento di poterlo dire, da addetto ai lavori. E poi però ha scritto vari articoli, vari libri, è sempre stato dentro al dibattito, non sempre necessariamente con il profilo dell'autorità, no? Cioè, possiamo anche definirti molto spesso un battitore libero su tanti di questi temi, e infatti il libro proprio riflette questa, un po' questa sua caratteristica. Tra l'altro, ecco, questa è una collana, Farsi un'idea, che pone dei paletti di divulgazione molto molto forti, no? Se avete letto anche qualche altro libro di questa collana, ecco, una cosa buona che io ho notato subito fin dalle prime pagine è che non, pur essendo divulgativo, non scende mai sotto un certo livello di approfondimento. Questo libro vedo che anche Fabio annuisce. Ecco, invece Fabio è un'altra persona molto importante, negli ultimi anni ha messo dei paletti, quando il dibattito andava fuori strada, quando si parlava di queste cose fuori luogo, per fortuna c'era magari qualche giornale, qualche televisione, qualche radio che lo chiamava. Lui è anche stato un giornalista, sia freelance, ha scritto per insomma testate importanti, Il Fatto Quotidiano, L'Espresso, Il Corriere della Sera, ultimamente diciamo scrive un po' di meno per testate cartacee, anche perché ha trovato forse più garanzie in altri rifugi come Valigia Blu, che è un sito di informazione che vi invito tutti a leggere perché è davvero molto, come dire, come prendere i panni sporchi che stanno lì nella cesta per alcuni mesi, poi dopo decidete vabbè, vediamo se li posso indossare ancora, e poi vedete che è la cosa più bella che avete in casa da indossare. Questa è la mia definizione di Valigia Blu, e Fabio è una delle firme più importanti che leggiamo lì dentro, di giornalismo veramente indipendente, come non se ne vede praticamente più. E ultimamente, tra l'altro forse anche perché si è stufato solo di raccontare queste cose, di fare il grillo parlante, ha deciso di fare proprio in modo che le cose cambino nella direzione giusta, e si occupa, ed è project manager, di un progetto molto importante che si chiama Automating Society, cosa che lo ha costretto a trasferirsi nella mia città preferita, che è Berlino. Che peccato. Dove io spero che tu trovi anche il tempo di fare cose più divertenti che cercare di migliorare il mondo. E così abbiamo dato un po' un quadro di queste due personalità, uno che ha dato al libro questa impronta, che è Antonio, e l'altro che insomma ne sa di queste cose, perché insomma ha scritto soprattutto di governance di internet, di tecniche di repressione, dissidenza digitale, conseguenze sociali e politiche dello sviluppo, che è Fabio. Questo per inquadrare un po' la discussione di oggi, perché io non vorrei fare la presentazione del libro, io vorrei utilizzarlo davvero un po' come spunto per approcciare il tema di Big Data nel modo corretto. Allora, la prima cosa che si capisce leggendo il libro, che ti rimette subito in sesto sui binari giusti del dibattito, è: guardate, c'è qualcuno che pretende di capire apparentemente meglio di noi che cosa desideriamo su tutte queste piattaforme online dove ci troviamo. Questo qualcuno non lo vediamo, non ha una faccia, è però qualcosa che ci appaga immediatamente e anche un po' ci inquieta, perché quando vediamo su Amazon che i libri magari che vorremmo comprare lui li ha già capiti prima di noi, diciamo, ma è veramente quello che desideriamo? Oppure è Amazon che non vuole farci riflettere, non vuole fare in modo che mettiamo in connessione due neuroni per superare la sua capacità di capire che cosa desideriamo? Ed è la prima domanda che voglio fare ad Antonio. Sì, questo diciamo è uno dei punti fondamentali intanto del libro in sé, ma anche della riflessione attuale. Prima di arrivare al discorso sul web, su cosa oggi rappresenta il web, il rapporto tra web come organizzato, cioè l'interfaccia molto spesso attraverso i social della nostra interazione con l'altro sulla rete, e la differenza tra un discorso sul web e invece, per stare anche al titolo di questo festival, è internet. Ovviamente immagino che le persone che frequentano questo festival sappiano bene la differenza tra queste due cose, ma spesso la confusione fra cosa è diventato il web e che cos'è internet, cioè come connessione digitale di ciascuno di noi, è uno dei punti da approfondire, che viene approfondito dal libro. Il punto del Big Data è esattamente questo: come cambia la raccolta di informazioni e la strutturazione di informazioni, per quale motivo, attraverso i comportamenti di ciascuno di noi sulla rete. È un impatto innanzitutto economico, e poi dopo essere un impatto economico diventa anche un impatto che riguarda il pluralismo, quindi il contenuto dell'informazione, il modo in cui scambiamo, riceviamo informazioni, ci informiamo, esprimiamo preferenze politiche e così via. Quello che ho cercato di fare è affrontare queste due grandi questioni che spesso hanno una letteratura e un'analisi separata: la questione di come big data vengono utilizzati e come rafforzano il potere economico e contrattuale dei big tech, cioè delle grandi piattaforme, e dall'altra, e quindi l'impatto soprattutto sul mercato pubblicitario, e d'altra parte invece il contenuto dell'informazione, come questa nuova modalità di diffusione dei big data sta alterando un concetto forse abbastanza vecchio, ma che è ritornato di gran moda, che è il concetto invece del pluralismo, che ha informato moltissima della diciamo così, produzione normativa di quasi tutte le democrazie prima e dopo le guerre mondiali. In Europa, dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli Stati Uniti un po' prima. Cosa c'entra tutto questo con il Big Data? C'entra il fatto fondamentale che quando usiamo la parola Big Data facciamo riferimento alla capacità che hanno gli algoritmi e chi lo organizza, e coloro che li organizzano, di utilizzare i nostri comportamenti online per acquisire informazioni, portarle ad una fase più generalizzata ed aggregata attraverso il confronto fra i nostri comportamenti e coloro che sono simili a noi, individuare una tipologia strutturata di persone che corrispondono a ciascuno di noi come tipo, e quindi predire, sulla base della definizione di questo tipo, quali comportamenti assumeremo su una serie di questioni. Quelle più semplici: che cosa vogliamo come prodotti, quindi dove si rivolgerà la nostra domanda commerciale, e in secondo luogo anche che cosa cerchiamo, che cosa vogliamo cercare in futuro sulla rete. Tutto questo per molti economisti viene definito come il mercato dell'attenzione, che è vecchissimo perché la pubblicità c'è sempre stata, ma che oggi ha una capacità, diciamo così, di penetrazione e di efficacia nell'indicare la personalità di ciascuno di noi, che rappresenta da questo punto di vista un inedito nella storia. La precisione è tale che con alcuni like si possono determinare con certezza tutta una serie di caratteristiche che vanno da preferenze politiche a preferenze sessuali, a diciamo parametri relativi ai prodotti che vogliamo comprare e così via. Dall'altra parte c'è un altro tema, che per far sì che l'algoritmo diventi sempre più rilevante occorre che queste informazioni non siano soltanto quelle di ciascuno di noi, ma di un gran numero di persone. Quindi l'essere big dei data rappresenta esattamente questo. Non è un caso che i campioni dei big data sono le big tech, cioè quanti più dati si confrontano, quanto più quella capacità predittiva sarà, come dire, forte e formalizzata in modo efficace, tanto più l'algoritmo è capace di autocorreggersi. Questa capacità predittiva comporta uno scambio implicito, di cui poi riparleremo, tra chi dà informazioni, cioè ciascuno di noi che dà informazioni all'algoritmo attraverso i comportamenti, e l'algoritmo e le grandi piattaforme che ci restituiscono informazioni. C'è uno scambio implicito fra attenzioni e dati, per cui un vero e proprio patto si realizza: se vogliamo avere informazioni dal web, dobbiamo rivelare a nostra volta informazioni. Questo processo è molto efficiente dal punto di vista strettamente economico, quindi del concetto di efficienza che usano gli economisti, perché riduce i cosiddetti costi di transazione. Siamo in grado di avere una risposta in tempi molto brevi alle nostre domande. Al tempo stesso, però, proprio perché l'efficacia è fortissima, aumenta il cosiddetto engagement, cioè la nostra soddisfazione verso la piattaforma farà sì che chiederemo quella piattaforma sempre di più, passeremo sempre più tempo, sarà il nostro intermediario sul mondo. Questo solleva appunto due grandi questioni, che mi fermo per adesso: la questione del potere di mercato, perché una volta che stiamo bene in una certa piattaforma, difficilmente usciremo verso piattaforme concorrenti, e sapete benissimo che, per esempio, Facebook è una piattaforma che ogni giorno registra, diciamo così, l'accensione di circa 30 milioni di italiani che stanno su quella piattaforma. È un audience che non ha nessun altro media in Italia, e nello stesso tempo, però, questo tipo di grande questione informativa, che appunto genera potere di mercato, pone un altro tema, perché se tutti quanti guardiamo la stessa piattaforma, c'è un problema di capire se quella piattaforma è neutrale nel modo in cui l'algoritmo organizza le informazioni, o se invece ci può restituire forme più o meno volute di, lasciatemi usare questa parola tra virgolette, manipolazione informativa attraverso il lavoro degli algoritmi, tale da creare dei problemi sotto il profilo del pluralismo. Ecco, infatti questa è una connessione frettolosa e superficiale che tanti media fanno, cioè quello di legare esclusivamente alla privacy il tema dei big data, che naturalmente è un grosso problema anche quello, e possiamo anche analizzarlo da quel punto di vista. Però quello che dice Antonio a un certo punto nel libro, e che rompe questo racconto quasi univoco, automatico, è che i temi davvero drammatici sono il fatto del vantaggio competitivo di pochissimi grandi raccoglitori di informazione che si trovano in un monopolio, che tra l'altro è un monopolio naturale. No, si parlava di Facebook, non è solo che noi rimaniamo in Facebook perché ci troviamo bene in Facebook, rimaniamo in Facebook perché lì ci sono tutti gli altri. E questo è il punto: se oggi qualcuno facesse una Facebook più bella, non riuscirebbe mai ad attrarre il pubblico, perché non ci sarebbe nessuno, nel famoso effetto network. E quindi è per via di una caratteristica naturale di Facebook che si crea questa condizione di monopolio deleteria, perché se questo compito, tutte queste scelte, tutta questa opacità dell'algoritmo riguardano sostanzialmente un soggetto, poi ci sono anche altri soggetti, e questo è un grossissimo problema di cui si parla poco rispetto al tema della privacy. Non so se sei d'accordo. Secondo punto che tu sollevi nel libro è il fatto che l'impiego di queste enormi quantità di dati riguarda, per esempio, il marketing politico, la disinformazione. Questo è un altro tema di cui nel libro si parla molto, a partire dai primi grandi abusi che hanno poi sollevato il tema, no? Se ne parla nelle prime 10 pagine, sono le due storie che hanno fatto salire, per fortuna, il tema agli onori della cronaca, e qui adesso mi rivolgo anche a Fabio, che sono il caso di Prisma, no? Quando fu uno Stato fondamentalmente ad accordarsi con i grandi player per fini di, diciamo, di controllo politico, insomma, legittimo, e poi vedremo fino a che punto. Vorrei chiederti anche, perché tu hai sempre questo profilo politico nell'affrontare un tema che è un tema pubblico, e poi l'altro grande abuso, che è quello di Cambridge Analytica, no? E quando il protagonista fu un comitato elettorale, cioè quello chiaramente che chiese a Cambridge Analytica di intervenire per condizionare la campagna presidenziale. Ecco Fabio, quanto questo tema, vorrei, ecco, tracciamo una linea con te, che sei attento a questo, quanto questo tema è privato, riguarda la società privata, e quanto è pubblico? E chi sono i soggetti che in prima battuta, secondo te, dovrebbero intervenire per correggere gli abusi? È un tema difficilissimo, grazie della lunga e generosa presentazione. E io vorrei cominciare citando una frase del libro che vorrei scolpire nella roccia, tipo, insieme alla famosa spada, no? Di modo che non se ne esca più. Le strategie di disinformazione individuano un fenomeno ben più complesso delle semplici notizie false. Questo può sembrare banale, non lo è, perché noi per ormai tre, quasi quattro anni abbiamo parlato di notizie false, abbiamo parlato molto meno di strategie più ampie di disinformazione. Quindi questa è la prima persona che dovrebbero occuparsi, sono gli studiosi, quindi sarebbe il caso che cominciassero a studiare anche come interagiscono i media in modo non soltanto all'interno di un singolo medium, per esempio, all'interno di soli social media, no? L'Agicom fece un rapporto l'anno scorso, un dedutivo sicuramente amicita, ma al pubblico sì, in cui si parlava di cross-medialità, che è un concetto fondamentale, cioè ed è un concetto che purtroppo in ricerca è molto difficile da implementare, nel senso che come si studia la disinformazione, l'effetto di congiunto della propaganda, della manipolazione, della disinformazione di TV, radio, social media, politica, comizi, no? Talk show e tutto qua, cioè è un insieme, non è che perché ci sono i social media scompaiono gli altri, le agende si intersecano, si manipolano, si sabotano l'una con l'altra, no? Quindi fondamentalmente questo è, secondo me, un blind spot della ricerca, non riesco a trovare qualcosa che mi dia un metodo anche solo per misurarla questa cosa, questo è un grosso problema. Dopodiché la qualità dell'informazione è una questione pubblica, ragazzi, è una questione di democrazia, non è una questione che riguarda Facebook, Twitter, la Fiat o chi per lei, è una questione che riguarda ogni singolo cittadino di qualunque paese della terra finché c'è, naturalmente, perché abbiamo visto che probabilmente non c'era ancora per molto, peccato. A parte le battute, è veramente una questione di democrazia, per cui secondo me è imperativo andare coi piedi di piombo, è imperativo trattare ogni singolo problema nel merito e con soluzioni diverse, sono problemi diversi che richiedono soluzioni diverse. Vero e falso non è una cosa che possono decidere le piattaforme o i governi, è una cosa che decidono le comunità umane di solito accordandosi tra di loro, un po' come il valore del denaro, se volete, no? Solo che purtroppo non c'è un mercato per decidere cosa è vero e falso, fondamentalmente. E dall'altro lato però bisogna dare delle regole che siano uguali per tutti, che valgono per la televisione, che valgono per la radio, che valgono per i social media, che valgono per internet, che non è i social media, ci sono un sacco di paesi nel mondo dove si confonde Facebook con internet. Tipo l'India, tipo la Nigeria, tipo molti altri paesi africani dove appunto questi soggetti, questi grossi player tecnologici arrivano e portano, no, con una forma di colonialismo digitale, dicono ah, guarda che bello, ti do la connessione gratuita, a me, se vai dal concorrente paghi, no? Questa non è un'idea particolarmente adatta di internet, perché internet è l'utente che sceglie, non chi ti fornisce il servizio di solito, no? In teoria. Per cui questa è un po' l'idea, la disinformazione è un problema enorme e naturalmente è un problema che è triste vedere ridotto a questa o quella fake news o a questa o quella proposta di legge. Tra l'altro c'è questo sociologo, François Jost, che disse, scusate, semiologo, che disse che non è possibile attribuire proprio a livello teorico le categorie del vero e del falso a qualsiasi cosa che sia un testo, quindi continuare a parlare di verità è fuorviante. Assolutamente, è un discorso molto problematico anche secondo me nel movimento climatico che c'è oggi, perché loro dicono assolutamente, continuamente, stiamo uniti dietro la scienza, stiamo uniti dietro la verità della scienza. Insomma, non è che la scienza non è né filosofia né politica, trasformarla in filosofia o in politica è un errore. Se la si trasforma in filosofia, di norma diventa scientismo e quindi di fatto la scienza sostituisce ogni altra forma di conoscenza, e questo è sbagliato, naturalmente. Questo quando riguarda me, te, e quando riguarda il pianeta è sbagliato uguale, purtroppo. Non è che perché il pianeta sta morendo allora la scienza fa la politica o fa la filosofia, è un'altra cosa, no? È la stessa cosa purtroppo nella tecnologia. Cioè nella tecnologia ci dice che noi possiamo al massimo adeguarci alla tecnologia. La tecnologia, c'è un bellissimo termine che usa Shoshana Zuboff in questo libro, che secondo me è ultra citato non proprio per merito, ma secondo me questo invece è vero, lo chiama inevitabilismo. Cioè la tecnologia si afferma perché si afferma, punto. Tu al massimo puoi, no, puoi cercare di capire come curarti e lenirti le ferite, ma non è che puoi evitare il colpo, no? Questo dice. E questo non è vero, semplicemente, perché tutta la storia umana testimonia l'esatto contrario, fondamentalmente. Cioè che noi abbiamo cercato di mettere la nostra creatività al massimo, abbiamo spinto al massimo, quando abbiamo visto che le conseguenze erano nocive in una parte, abbiamo cercato di regolarle, di limitarle, di cambiarle, di andare oltre ancora, no? Di problematizzarle, se non altro. Chi accetta la tecnologia come verità rivelata, diciamo, no? Come epifania di non si sa bene cosa, fa un disservizio all'intera comunità umana, non soltanto ai tecnologi. Ok, quindi insomma abbiamo capito che il tema è pubblico, io ero d'accordo, ma non avrei mai trovato parole precise come quelle di Fabio per dirlo. Mi rivolgo invece ad Antonio per chiedere, ora che abbiamo capito che gli stati e le aziende che devono obbedire alle leggi degli stati possono fare molto, e quindi è un tema di quadro normativo, di, diciamo, vuoto normativo che va colmato, no? Come è successo anche per le precedenti rivoluzioni industriali. È chiaro che se avessimo lasciato la rivoluzione industriale, per esempio la catena di montaggio con i bambini che lavoravano 14 ore al giorno, senza che poi intervenisse la legge, il dibattito pubblico, no? A moderare questa rivoluzione, insomma, quella sarebbe stata una distopia, insomma, non a caso negli anni 20 i film di quel periodo, tipo appunto Charlie Chaplin, Metropolis, raccontano che cosa sarebbe potuta diventare quella rivoluzione industriale. Poi ci sono stati tanti problemi comunque anche con quella rivoluzione industriale, però abbiamo trovato un modus vivendi con quella prima rivoluzione. Adesso siamo, qualcuno dice alla terza, qualcuno alla quarta, la quarta rivoluzione industriale, e abbiamo di nuovo un problema di vuoto. Gli stati possono fare molto, le leggi possono fare molto, però in questo guado in cui ci troviamo, in questo momento di vuoto, individualmente, a livello di consapevolezza, che cosa possiamo fare? Ma questo è un tema molto importante, perché diciamo, le due questioni, partendo da quello che dicevo prima, cioè che le due questioni che abbiamo di fronte sono connesse tra loro, ma diverse dal punto di vista della soluzione, cioè l'efficienza dell'algoritmo quando cerchiamo per esempio un prodotto sulla rete e la inefficienza dello stesso algoritmo quando, sapendo che noi abbiamo un certo tipo di preferenze, lasciatemi dire politico-culturali, ci restituisce sempre un tipo di informazione e di visione del mondo che rispecchia esattamente le nostre preferenze. Quindi ciò che va bene quando cerchiamo il prodotto è un dramma sotto il profilo del pluralismo, che dovrebbe essere invece incontrare ciò che è diverso da te anziché ciò che ti somiglia. Fatta questa premessa, capiamo che c'è una stessa questione, cioè il funzionamento degli algoritmi, della profilazione attraverso i big data, che ha bisogno di quella che gli economisti chiamano una regola di separazione, avrebbe bisogno di una regola di separazione, cioè di trovare qualcosa che risolve un problema senza peggiorare l'altro. Allora, com'è possibile far sì che l'incontro fra domanda e offerta di informazioni funzioni bene quando abbiamo un prodotto da comprare e funzioni in modo opposto o comunque diverso quando abbiamo delle idee da confrontare? Già questo è un grosso tema aperto. Nel libro apro un sacco di domande, ma diciamo poi le risposte le do appunto al lettore. Perché? Perché evidentemente c'è una riflessione da fare sulle regole. Però lasciatemi dire, prima di tornare a cosa possiamo fare ciascuno di noi, che quando parliamo di regole, ogni volta, sia se si parla di regole su internet, come accadeva in passato, sia di regole sul web, cioè sui social in particolare, ma anche sulle piattaforme, si apre un grosso dibattito, perché, come giustamente diceva Fabio, ogni volta che noi andiamo avanti con le regole, e abbiamo degli esempi di legislazione in Germania, in Francia e così, il rischio di andare poi a creare dei problemi sotto il profilo delle libertà individuali è molto alto. Quindi quando parliamo di regole dobbiamo sempre stare molto attenti, ma dobbiamo anche essere consapevoli del fatto che quando parliamo di regole pubbliche, che quindi devono essere sottoposte a un dibattito pubblico, non stiamo parlando di introdurre regole in un mondo che non ha regole, perché tutto questo mondo è pieno di regole private. Quindi quello che ci ci serve capire intanto quali regole ci sono oggi, per esempio sotto il funzionamento degli algoritmi, capire quali possono essere i problemi e a quel punto aprire un dibattito pubblico su quali possono essere le soluzioni. Dal punto di vista individuale, uno dei problemi principali che sono studiati anche da moltissimi studiosi, economisti, antropologi, sociologi e così via, è l'illusione del framing che attraverso i nuovi web noi abbiamo, cioè il fatto di avere una notizia che scorre su Facebook ci crea due illusioni. La prima, che sia una notizia, cioè che sia un'informazione strutturata e probabilmente confezionata da qualcuno che ha un lavoro, un mestiere di qualità di informazione e non dall'algoritmo. La seconda è che abbiamo l'impressione che quando accendiamo, diciamo così, il nostro computer, il nostro smartphone e accediamo alla nostra pagina, diciamo, facciamo di nuovo l'esempio di Facebook, insomma di un social, stiamo guardando, un po' come quando andiamo sulla homepage di Repubblica o del Corriere, una pagina che è la stessa per tutti. Quindi nel primo caso abbiamo l'illusione di una produzione umana di informazione di qualità, nel secondo caso di una graduatoria di selezione di informazioni che più o meno è la stessa che abbiamo tutti quanti. Una volta una mia compagna, una ex compagna di classe, mi ha scritto un messaggio: ma ragazzi, andate su Facebook, avete letto questa notizia? Io non la trovavo perché il suo Facebook non è il mio Facebook, cioè perché la selezione e la graduatoria delle informazioni che riceviamo dipende appunto dalle nostre preferenze e dai nostri comportamenti. Allora, per acquisire consapevolezza da parte di ciascuno di noi, innanzitutto capire come funziona questo meccanismo e perché funziona in questo modo, cioè capire che è un mondo ritagliato per ciascuno di noi. È stato fatto un bellissimo esperimento in Argentina dalla World Wide Web Foundation, che ha inventato 9 profili falsi di Facebook, tutti identici. Poi a 2 di questi gli ha fatto cambiare un like: uno ha dato un like al governo, uno ha dato un like all'opposizione. Da quel momento quello che loro vedevano sui social era cambiato completamente, quindi una finestra sul mondo diversa. Già capire questo, io anche ci ho messo un po' da quando mi sono messo a studiare queste cose, è un punto importante, perché di solito il dibattito, come giustamente dicevi tu all'inizio, è tutto sul lato privacy, è tutto sul lato protezione personale. Non troverete spesso dibattiti sui big data dal punto di vista economico o del lavoro. Quindi già il punto primo, il primo punto che possiamo fare è capire questo, cioè capire come quel tipo di profilazione algoritmica ci restituisce anche una selezione del mondo che è ritagliata solo per ciascuno di noi. Non è l'agora pubblica, non è una finestra sul mondo, ma uno specchio in qualche modo fatto per noi che ci riflette. Il secondo punto, brevemente, è cercare di capire che questo è un tema che riguarda appunto la democrazia, quando poi si trasmette anche le preferenze politiche, cioè capire che quando noi appunto permettiamo all'algoritmo di fare certe cose, sta anche selezionando per noi un certo tipo di idee. E non dobbiamo pensare che la privacy risolve il problema, perché il famoso e utilissimo GDPR ci costringe a dare il consenso, e tantissimi studi empirici dimostrano che diamo il consenso a cose che non leggiamo. Il famoso esperimento spagnolo, per cui tra e anche in Inghilterra è stato fatto, tra 40 cose che ti chiedono per dare accesso a wifi c'era cedere tuo figlio, no? E tutti cliccano perché in 2 minuti vuoi avere accesso al wifi. Quindi non è un vero contratto, non è un vero consenso, ma oltre questo è un consenso su un tipo di dati che rappresenta la minima parte dei dati che veramente cediamo su ciascuno di noi, che vengono scambiati: la nostra voce, la nostra immagine, le parole chiave se usiamo un certo, no, server anche per le mail, eccetera eccetera. Cioè non abbiamo consapevolezza sulla quantità di dati che rilasciamo e su come questi vengono utilizzati. Quindi il tema è anche spostarsi dall'ambito privacy all'ambito della transazione economica, e dobbiamo sapere che c'è uno scambio economico implicito che noi suggeriamo nel libro, deve invece tornare ad essere esplicito, cioè tornare ad essere trasparente e capire che stiamo scambiando attenzione per dati e informazioni per attenzione. Bene, allora, per tornare a un tema che sta molto caro a Fabio, che è legatissimo sia al tema dei big data sia il tema dell'intelligenza artificiale. Ecco, un altro allarme che viene sollevato poco rispetto al tema della privacy, che ripeto esiste, è quello del riconoscimento facciale. Ecco, questa è una cosa su cui Fabio ultimamente ha scritto cercando di alzare alcune bandierine rosse che però passano abbastanza inosservate. Volevo che tu magari un po' raccontassi a che punto siamo. Come... Senza gli insulti, dici. Sì. Okay. No, beh, allora, okay. Devo dire che le ultime presentazioni di libri che ho sentito qua erano abbastanza colorite. Quindi, e poi appunto magari ci spiegassi, tu che hai anche scritto per testate eccetera, perché il tema non è poi così pop come tanti altri che invece stanno a cuore dai nostri media. Questa è la seconda parte della domanda, è molto affascinante, non te lo saprei dire, mi rende perplesso, diciamo così, il fatto che ci sia grande successo di qualunque app che usi riconoscimento facciale per trasformarti in più vecchio, per trasformarti in Pinocchio, e poi dopo non interessa a nessuno sapere però come funziona sta cosa, dove finiscano i dati. E perché? Perché è possibile che ci sia un filtro gratuito di quel tipo su un cellulare che abbiamo tutti, no? Insomma, è abbastanza... mi turba, devo dire la verità, cioè io non ho mai usato queste cose, le ho usate uno perché mi serviva per far vedere nel pezzo mi fotografavo in pigiama fondamentalmente, veniva fuori che ero una sorta di beard, in inglese molto difficile da tradurre, è una sorta di copertura, un prestanome, una cosa del genere per capirsi, mettendo solo una giacca e la camicia sopra il pigiama diventavo un amministratore pubblico. Ok, e questo per far capire, no? Era un test di, tra l'altro usato su un dataset che poi viene usato davvero nei prodotti che sono in commercio, per cui immaginatevi come funziona. E il problema qual è fondamentalmente che queste cose non funzionano, che vengono vendute come funzionanti e che anche quando funzionano, siccome parliamo di cose estremamente rilevanti, cioè parliamo di decidere il destino giuridico di una persona, decidere se una persona deve essere assunta o meno, decidere se deve avere un certo tipo di livello di assistenza sociale, di premio assicurativo, cioè stiamo parlando di cose che riguardano veramente la vita di tutte le persone. E di fatto queste cose vengono demandate sempre di più a sistemi, che sono quelli che studio lì a Berlino, sistemi di noi chiamiamo automated decision making, cioè per far capire che non è soltanto la questione dell'algoritmo che fa questa selezione, è la questione di chi ha concepito un sistema talmente idiota, d'accordo, in cui c'è un algoritmo che è il risultato finale, che prende la decisione finale di fatto, ok? E tutto un sistema sociopolitico gli è costruito intorno. Pensate alla buona scuola, cioè pensate all'algoritmo della buona scuola. Io ho letto la documentazione tecnica di quel dannatissimo algoritmo che ha fatto un casino terrificante, sta costando un sacco di soldi a noi tutti, perché ovviamente i docenti giustamente stanno continuando a fare ricorsi su ricorsi su ricorsi e a vincerli, perché l'algoritmo semplicemente ha sbagliato a assegnare i posti dove dovevano andare in mobilità i docenti, dove erano chiesti di andare, invece di darli a chi ne aveva veramente merito secondo le graduatorie del Ministero dell'Istruzione, aveva fatto secondo un criterio tutto suo, completamente sbagliato. La ragione è molto semplice, uno va a vedere il codice, era un codice programmato in COBOL, per chi sa cos'è un codice di programmazione degli anni 60, d'accordo, con delle variabili dentro che erano scritte, dice la relazione tecnica, apposta per non essere controllabili, cioè erano fatte apposta, presi pezzi di software già scritti in decenni, d'accordo, che sono stratificati, trasformando questo codice in inintelligibile se non per chi l'ha scritto, che non c'è più, perché naturalmente è come dire che prendo Shakespeare, Kafka, e poi chi l'ha scritto il romanzo, non si sa, d'accordo? Il problema è che poi il risultato di chi è la colpa? Questa cosa è stata bandita fuori prezzo, naturalmente, per centinaia di migliaia di euro a società partecipate pubbliche, molto spesso. Cioè, ma di questo c'è una forma. Tutto questo per cosa, voglio dire, no? E il riconoscimento facciale fa parte della stessa logica. Cioè, la logica è, vogliamo rendere più veloce il controllo dei passaporti all'aeroporto, vogliamo rendere più efficiente, che ne so, controllare chi c'è, chi entra e esce da un quartiere, no? Beh, cosa facciamo? Facciamo una bella banca dati, no? Centralizzata, che va a finire non si sa a chi, che la rende a non si sa ancora chi, tramite dei soggetti, degli algoritmi che discriminano in maniera sistematica le persone di colore, le donne, le persone più deboli, bla bla bla, in maniera sistematica, ci stiamo parlando di difetto strutturale degli algoritmi, e sappiamo anche che se dovessero funzionare nel 99,9% dei casi ci sarebbe quello 0,1 che viene punito ingiustamente, che non è accettabile, perché non è che la legge si applica in maniera statistica, no? Tutte le volte che usiamo un algoritmo e deleghiamo a un algoritmo una decisione pubblica, quando una legge delegano a un algoritmo una decisione pubblica, commettiamo un errore proprio di partenza, che è più o meno lo stesso che fa per esempio la direttiva sul copyright, quando dice che è un algoritmo a decidere quando viene infranto il copyright oppure no. È una delle principali critiche che vengono. Cioè, poi l'algoritmo perché fa, non decide nulla, perché sennò finiamo nella... di fatto non decide nulla. Il problema è che gli viene dato, cioè gli viene la presunzione di neutralità, di oggettività, esatto, di infallibilità dell'algoritmo, fa sì che comunque la decisione dell'algoritmo venga poi presa. Questa è la vera cosa grave. Cioè, la cosa interessante anche del libro di Antonio è che si parla molto di bias cognitivi, di euristiche di giudizio. Cioè, di fatto noi stiamo parlando di tecnologia, ma stiamo parlando di come gli esseri umani si rapportano alla tecnologia. E gli esseri umani si rapportano alla tecnologia nello stesso modo in cui si rapportano tutte le cose che pensano, facendo un sacco di cazzate logiche, d'accordo? Questa è la verità. Queste cazzate logiche, che si chiamano euristiche di giudizio, bias cognitivi, sono state studiate negli ultimi 40 anni in psicologia cognitiva, andrebbero applicate molto di più a come noi ragioniamo sul digitale, perché il modo in cui noi capiamo e fruiamo delle informazioni tramite questi meccanismi di selezione si vanno a innestare non soltanto, non è soltanto la piattaforma che è selettiva, è il nostro cervello che è selettivo, è molto peggio, perché la piattaforma la puoi regolare, il cervello è quella roba lì, purtroppo, no? E quindi sì. Questa è un po' la questione, cioè dobbiamo capire come sbagliamo nel parlare di queste come cose. Come sbagliano gli uomini nel programmare le macchine, esatto. E come sbagliamo. Per chiudere sul riconoscimento facciale, negli anni, a metà del secolo scorso, c'era una grande fotografa, Vivian Mayer, che scattava fotografie sconosciuti ed è diventata celebre solo dopo la sua morte, quando sono state riprese le sue fotografie che erano dei capolavori. Se ci fosse una Vivian Mayer adesso, con Google Image Search, le vittime, tra virgolette, dei suoi capolavori si sarebbero subito riconosciute, ritrovate, e avrebbero potuto magari incriminare Vivian Mayer per aver infranto la privacy. A che cosa dobbiamo rinunciare? Lo chiedo, non lo so, un po' a tutti e due, poi leggiamo anche un brano del libro, grazie al collettivo. Ci metto, io vado velocissimo. Bisogna rinunciare alla personalizzazione nei social media, secondo me è possibile pensarci. Cioè è possibile pensare che effettivamente l'idea di dare a un soggetto da 2 miliardi di utenti la possibilità di decidere cosa deve finirci sotto gli occhi potrebbe non essere una grande idea, soprattutto se applicato alla politica. E dall'altro lato bisogna rinunciare al riconoscimento facciale, cioè a casa mia si banna questa roba, cioè si mette al bando fino a nuovo ordine, fino a quando non si capisce come tutelare ogni singolo individuo che passa in un aeroporto con un passaporto valido ed è un cittadino innocente. Non è accettabile che ci sia una persona nel mondo che viene riconosciuta in maniera sbagliata. Tutto lì. Allora, io sono d'accordissimo che non aggiungo niente, dico soltanto una questione, cioè che ci sono alcuni paradossi che in particolare riguardano il modo in cui la teoria economica ha affrontato alcuni problemi. Faccio un esempio solo per tutti: asimmetria informativa tra chi deve fare una prestazione e chi la deve controllare. Può essere il medico e il paziente, può essere il proprietario terriero rispetto alla persona che lavora in quel modo. Allora, la teoria economica ha trovato delle soluzioni ritenendo la simmetria informativa è un problema economico, nel senso che se fossimo in un mondo senza simmetria informativa, avendo tutti la stessa conoscenza, saremmo in un mondo migliore. Bene, questo è vero in alcuni casi. In altri casi, quando io sono un'assicurazione che deve stipulare un'assicurazione nei confronti di qualcuno che è titolare di malattie e sono in grado di capirlo sulla base anche della predizione algoritmica di certe sue caratteristiche, oppure ho delle informazioni che mi portano a delle distorsioni non solo cognitive, ma proprio delle distorsioni di tipo informativo e quindi dei bias razziali, per esempio, come quelli che si sono realizzati in Florida per l'algoritmo Compass tra neri, afroamericani, bianchi, eccetera, eccetera. Cioè ci sono dei casi in cui noi stiamo applicando all'algoritmo una soluzione di panacea rispetto a problemi che abbiamo sempre avuto di asimmetria informativa, ma non ci rendiamo conto, non ci siamo chiesti la potenza dello strumento in termini di disponibilità di informazioni che oggi abbiamo, quali nuovi problemi, quali nuove discriminazioni può realizzare. Questo è un tema profondamente politico del quale però non si discute ed è fuori da qualunque agenda. Quindi sicuramente dovremmo cercare, prima di dare il via a certe forme di sperimentazione, di capire perché le utilizziamo. la risposta parziale che abbiamo dato è quella di dire, beh, c'è la questione della privacy e quindi siamo tutelati. In realtà, per esempio, il riconoscimento facciale sta fuori anche dal regolamento europeo, cioè si tratta di tutti quei casi di dati cosiddetti non strutturati, magari anche non necessariamente personali o non sensibili, che però costituiscono i dati più rilevanti oggi e quelli su cui si estrae il maggior valore economico. Allora il rischio è esattamente quello, e poi sono totalmente d'accordo con lui, che la politica, cioè noi, non la politica dei partiti, ma la società che deve discutere di se stessa, a volte di fronte a problemi così grossi pensa che delegare la decisione all'algoritmo sia neutrale e quindi sia la cosa più corretta che esiste, anche più utile dal punto di vista democratico, mentre tutti i problemi di limite umano per cui c'è bisogno della politica non solo sono lì, ma forse sono addirittura rafforzati. Allora, una delle cose belle della sezione Book e Book di questo Internet Festival è che ogni tanto possiamo leggere un brano, cosa che potremmo fare in modo imbarazzante noi, ma per fortuna invece ci sono delle persone che lo fanno non solo per abitudine o per ma proprio per missione, perché vanno a farlo in posti molto più sfortunati di questo, cioè negli ospedali, nelle carceri. Si chiamano il collettivo Letture ad Alta Voce e adesso abbiamo Leonora che ci leggerà un primo brano di Big Data di Marco Del Mastro e Antonio Nicita. Un famoso spot, utilizzato per oltre 40 anni da L'Oreal, recitava «Because you are worth it», perché tu vali. Bellissime modelle pubblicizzavano prodotti cosmetici, ma il messaggio suggeriva che il valore non risiedeva tanto nei prodotti, quanto nella persona che li usava e che li meritava. Una donna, ancor prima che una modella. Erano gli anni 70 e quello spot fu un cambio di prospettiva di enorme successo. Oggi si potrebbe dire, noi valiamo anche perché i nostri dati valgono, per due ragioni su tutte. A, perché i dati permettono di profilare la nostra domanda individuale di consumo di servizi e prodotti, rendendo assai efficaci forme di pubblicità e di commercializzazione personalizzata, aumentando la probabilità di vendita. B, perché i dati consentono agli algoritmi di migliorare se stessi, man mano che nuovi dati sono analizzati, e di stimare così la domanda aggregata a un media di consumo di servizi e prodotti, indicando in tempi assai rapidi le evoluzioni delle preferenze, i bisogni del mercato, le opportunità di investimento e di innovazione e così via. Il che permette di sviluppare al massimo il rendimento degli investimenti pubblicitari attratti dalle grandi piattaforme online. Il valore dei dati aumenta con il loro volume e la loro varietà. E per aumentare il valore dei dati, il mercato e l'industria si sono evoluti con modelli di business nuovi, in modo tale da stimolare in ciascuno di noi la massima intensità di rivelazione dei dati. Come? Con l'avvento del paradigma del free, che nella lingua inglese significa libero, ma anche gratuito. Una straordinaria combinazione semantica che tuttavia alimenta, e non poco, la confusione del concetto di libertà di scelta. Ma quello che ci sembra un banale strumento per ottenere un libero accesso è in realtà il vero bene, il cui scambio regge la transazione commerciale sottostante. Lo scambio implicito, per tutta questa gratuità di servizi, è con la nostra attenzione, con il rilascio di dati che permetteranno poi promozioni e pubblicità personalizzate per i nostri bisogni. A questo scambio implicito corrisponde un mercato implicito, quello dei dati, dei quali sappiamo ancora troppo poco. Come spesso si ripete, in questi casi il prodotto siamo noi. Dunque, il free di molti servizi online non è libero, perché è condizionato ad uno scambio, e non è gratuito perché è pagato con i nostri dati. Ma come viene creato il valore del dato? Come si struttura il mercato dei dati? E come si distribuisce il valore del dato? Perché io valgo? Perché il prodotto sei tu. Questa è una delle frasi di maggiore successo nella narrazione, diciamo, dominante, largamente condivisibile, eccetera. Però io faccio sempre la domanda: ma quando le tecnologie erano infinitamente meno efficienti ed efficaci, per esempio, per rilevare per esempio l'ascolto televisivo, no? Quando Nielsen inventò l'audimeter, quindi nelle case di alcune migliaia di persone, quindi c'erano questi campioni, c'era questa macchinetta che rilevava tutti i cambi di canale, sulla base di queste decisioni, di questi dati, perché erano dati molto più piccoli a campione, si prendevano poi delle decisioni di tipo di marketing, pubblicitario, eccetera. Oppure, per metterci qualcosa di ancora più folcloristico, le macchinette con cui i funzionari giapponesi guardavano i passanti, registravano i passanti davanti ai negozi. Anche quella era una raccolta di dati molto, molto analogica e molto limitata. Beh, però, attenzione, anche in quel caso, il dato che stavi condividendo, tu che passi davanti al negozio, tu che cambi canale, il prodotto eri tu anche allora. E quindi ciò di cui stiamo parlando è l'aumento di scala, i problemi derivanti dall'aumento di scala di questa rilevazione di dati. O c'è di più? Sicuramente c'è, la scala è fondamentale, infatti Big si riferisce a questo, ma c'è di più in due aspetti. Il primo, dal punto di vista del business, è sempre un mercato della pubblicità, quindi hai perfettamente ragione, gli economisti dicono mercati a diversi versanti, perché c'è la piattaforma come la TV che aveva un rapporto con chi pagava la pubblicità e poi un altro rapporto con l'utente a cui facevano vedere i servizi, mentre gli utenti e i pubblicitari non si parlavano fra di loro. Ora, se questo schema è rimasto lo stesso, quello che cambia profondamente è il fatto che il tipo di profilazione che stiamo facendo non riguarda diciamo il singolo contenuto, ma una costruzione, diciamo, a 360 gradi, che, come ho detto all'inizio, non riguarda solo noi, ma contribuisce a creare un tipo che ci somiglia e quindi realizzare una capacità predittiva. Quindi è un insieme di big data ed efficienza dell'algoritmo che poi è il vero valore aggiunto competitivo delle grandi piattaforme. Questa è la prima grande differenza, cioè non è soltanto la scala, è anche l'intensità. In secondo luogo, e quindi anche il brano che è stato scelto, è perché questo, diciamo, è ancora più forte sui social, perché mette insieme, proprio con questo modello di business, un'ambiguità di fondo sul concetto del free, che significa libertà di espressione, di navigazione, ma attraverso quella libertà io sto liberando sempre più informazioni su me stesso, che hanno un valore economico. Quindi, diciamo, il tema è che forse proprio perché siamo in un mondo in cui è così facile andare a ridurre i costi di transazione rispetto al giapponese, probabilmente forse questa idea che ci sono soltanto dei soggetti che esprimono informazioni, cioè noi, e questi stessi soggetti non possono essere invece i proprietari delle proprie informazioni, quindi poter valorizzare anche in questo scambio ciò che è nostro, è l'elemento, diciamo così, anche nuovo, perché oggi è possibile, grazie alla potenza, diciamo così, algoritmo, all'innovazione tecnologica, poter riattribuire i diritti di proprietà sulla nostra attenzione a noi stessi. Cioè noi possiamo effettivamente creare una nuova transazione in cui in qualche misura abbiamo quel tipo di proprietà. Perché dico questo? Perché questo è un concetto proprietario che viene spesso criticato da molti che invece ritengono che i dati sulla nostra persona non debbano essere oggetto di mercato, quando in realtà però inevitabilmente lo sono, e quindi, diciamo, è un dato di fatto incontrovertibile. Ma avendo la proprietà dei nostri dati significa o restituire a noi stessi la proprietà dei nostri dati, anche poterli in qualche modo commercializzare, significa dare a noi stessi il potere di controllo su di essi, che lasciato a ciascun individuo è qualcosa che è semplicemente utopistico, perché i dati su di me come singola persona non valgono praticamente nulla, proprio perché io sono un ennesimo del mio tipo. Quindi, se magari io mi stacco dai social, il mio tipo sarà comunque rappresentato grazie ai dati degli altri. Ma se invece permettiamo, attraverso la definizione proprietaria dei nostri dati, a nuovi soggetti sul mercato che sono pronti ad entrare, alcuni esistono, e vi cito, cioè nuove app, che nuovi aggregatori che rappresentano, intermediano il valore dei nostri dati con le grandi piattaforme e che ci permettono con pochi click di gestire, perché oggi andare qui e capire quali sono i profili, cosa devo dire, ok o non ok, alle varie piattaforme, eccetera, eccetera, è complicatissimo. Esistono delle app, io ne cito una che si chiama Ernie App, tra l'altro fatta da un'italiana, che intermedia per noi, con pochi click ci dice: vuoi continuare a navigare senza avere tutte queste profilazioni? Oppure riesce anche a dirci: guarda che quel social valorizza di più la tua informazione rispetto ad un altro, quella piattaforma rispetto ad un'altra. Quindi aggregando un gran numero di persone può anche chiedere indietro una parte del valore, o costringere a fare alcune cose e non farle altre, cioè riportare ad un ambito di negoziazione anche di mercato, attraverso però un diritto di proprietario che viene definito a noi stessi. Invece, continuare a pensare che non ci debba essere la proprietà perché i dati non devono essere lasciati al mercato, crea il paradosso che ci sono dei casi in cui, pur rispettando la privacy, noi in realtà abbiamo creato dei mostri che diranno: io il tuo dato non lo darò mai a nessuno, ma ci farà un grandissimo valore economico. Quando Zuckerberg annuncia che metterà insieme i suoi WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, tutti assieme, e che garantirà il massimo livello di criptazione del dato, per cui sarà impossibile che terzi lo possano realizzare, ha rispettato benissimo la privacy, ma anche difeso alla grande il suo monopolio informativo a livello mondiale, con il risultato che, diciamo, quel tipo di valore è massimizzato, e noi però siamo contenti perché non viene dato a nessun altro, che è invece un tema abbastanza equivoco. Quindi da questo punto di vista ci sono similitudini con i media tradizionali, ma ci sono anche delle profonde differenze. Il paradosso è che una delle cose che noi abbiamo sempre criticato sui media tradizionali, cioè il fatto di essere costretti a seguire un palinsesto, no? Noi accendevamo la TV, era una comunicazione uno molti. Abbiamo sempre pensato che con la comunicazione molti molti ci saremmo liberati, diciamo così, da questa dittatura, e in qualche modo avremmo deciso noi che cosa vedere. Allora, questo era il bel mondo di cui ci parlavano Derek Chang e anche, diciamo così, l'inventore del web, quando Tim Berners-Lee. Sì, Berners-Lee, quando avevamo un mondo fatto di blog, cioè di posti in cui noi andavamo. In quei blog ogni riga aveva un collegamento, come le cose che scrivi tu e che scrivete insieme, insomma, che permettono di verificare perché io sto sostenendo questa cosa, è vero o falsa. Boh, decidi tu, clicchi e vai a vedere se io l'ho ricostruita o bene o meno. Con quel mondo che è stato stravolto dai social, non c'è più. E quello era un mondo in cui effettivamente la comunicazione molti molti disciplinava quella dittatura del palinsesto, mentre adesso con la profilazione algoritmica, soprattutto dei social, delle grandi piattaforme, quella libertà del blog l'abbiamo perduta. Derek Chang è questo blogger iraniano che viene arrestato nel 2008 in Iran, si fa una serie di anni di carcere, poi viene liberato, scappa subito negli Stati Uniti, riapre il suo blog nel 2015, dice: ma io avevo lasciato un mondo nel 2008 in cui c'erano i blogger, adesso ho trovato un mondo devastato, e scrive un articolo dal titolo The Web We Have to Save. Sì, che parla di algoritmi che sostituiscono i palinsesti, di internet che è tornata ad essere sostanzialmente una televisione. Siccome non abbiamo molti minuti, faccio un ultimo passaggio con Fabio, che secondo me ha qualcosa di interessante da dire su questa nuova economia. Ecco, una cosa bella del libro di Antonio è che alcune cose di cui non si parla vengono affrontate, per esempio il tema centrale del dibattito: dato come qualcosa di nostra proprietà oppure dato che viene delegato a un mercato. Questa è una discriminante fondamentale per capire il problema. E poi soprattutto, nell'ipotesi invece del dato che comunque fatalmente va sul mercato, l'intervento di una nuova economia con dei nuovi intermediatori, perché attenzione, la nuova intermediazione potrebbe anche, esatto, dare dei vantaggi agli utenti e amplificare anche i loro diritti. Quanto ti convince questo ragionamento? Quali sono i rischi e come eventualmente Nel dibattito pubblico si deve considerare questa nuova economia di questi nuovi soggetti intermediatori. Io la sto leggendo i tuoi appunti, ho letto che l'ha chiamato un nuovo sindacato. Una sorta di sindacalisti del microlavoro, ho scritto, mi sono appuntato adesso. Sì, no, mi piace molto l'idea, mi piace qualunque idea vada a distruggere la radice di questo sistema che ha trasformato il mercato qualunque attività umana. Cioè, se voi avete qualcosa che ha... diciamo quelle cose che chiama domotica, no? Cioè se in casa avete sensori che misurano ogni cosa, li comunicano, cioè anche il vostro andare in bagno diventa fonte di marketing, cioè è affascinante. Per la settimana linguistica lo è sempre stato. È sempre stata, naturalmente, adesso lo diventa per qualunque cosa. È molto affascinante come tutto, in gran parte diciamo dei nostri dibattiti sul digitale, che in realtà sono dibattiti sul marketing, d'accordo, di come si vendono i dati, come si vendono i prodotti, come noi vendiamo venduti su internet, la parola marketing cioè, è completamente scomparsa dai radar, no? Quando invece è il vero colpevole, cioè la marketingizzazione di tutto quanto, quello che viene chiamato capitalismo della sorveglianza, è esattamente questo. Quindi qualunque cosa possa spezzare questo meccanismo mi piace. Mi piace ancora di più la domanda che fa invece Antonio nel libro, cioè dice: ciò che pubblichiamo sul web e sui social è una rappresentazione fedele e onesta di noi stessi? Perché un conto è se almeno questo marketing che ti entra in tutto nella vita almeno ti dà veramente, cioè capisce chi sei, capisce i tuoi bisogni, ti dà delle risposte interessanti, no? Ma se tutto questo finisce addirittura per parlare di un'entità astratta che non esiste, che può essere il Fabio Chiusi che qualcuno magari legge sui social media o che i miei amici leggono sui social media, cioè io non sono quella persona lì, io ho tutta una vita parallela, grazie al Signore, che non ha nulla a che fare con internet, non ha nulla a che fare con i social media e non ha nulla a che fare con la sfera pubblica, peraltro, che è una cosa sacrosanta e santa in democrazia, peraltro, l'unica cosa forse veramente santa, cioè poter fare quel cazzo che ci pare per almeno 8 ore al giorno e non essere in uno stato totalitario, cioè dove c'è sempre lo stato che intermedia in qualche maniera la tua esistenza, no? Cioè una cosa privata. Ecco, a me questa posizione, questa domanda secondo me è cruciale, perché fa veramente, porta il discorso economico su un lato filosofico, ce lo porta più alla radice, secondo me. Cioè noi non siamo i nostri dati, non si può trasformare la persona, che è un concetto che dibattiamo da millenni, in un insieme di dati soltanto perché fa comodo a una precisa categoria sociale, cioè chi ci fa i soldi sopra, cioè chi fa marketing digitale, d'accordo? Non è possibile, perché la persona rimane un'altra cosa, rimane quell'altra cosa lì, e la persona è quello che conta, non loro che vendono i dati. Quindi cioè, soprattutto quando parliamo di regole in democrazia, la tutela è alla persona prima, per dire, la che persona all'azienda. E non le personas. Esatto. Ma aggiungerei la persona che cambia, che deve avere il diritto di cambiare. Bravissimo. Perché poi nella questione predittiva, non a caso poi la questione dell'oblio eccetera eccetera, tu finisci per essere quella cosa lì, cioè che non puoi cambiare nel corso del tempo. Allora, ieri quando abbiamo presentato il libro di Boccadoro siamo stati cacciati intorno alle 7:15, 7:20, quindi io calcolo, visto che sono le 7:03, quel quarto d'ora per le domande. Sì. E se qualcuno ha delle domande da fare sulle cose di cui abbiamo discusso, è il momento buono per farlo. Adesso lo schema prevede che ci sia un momento di silenzio, io sto per dire va bene, rompo il ghiaccio e faccio la domanda e in quel momento si alza una mano, ecco qua. Sei un algoritmo. Ma è chiaro, se vuoi dare il microfono. Sei un algoritmo predittivo. Esatto. Giustamente avete parlato dell'uso che può essere fatto dei dati da enti economici che vogliono speculare ci sopra. Ma dato che gli esseri umani sono soggetti a vari scontri, come hai detto, se quei dati venissero utilizzati dallo Stato per cercare di disinnescare i bias cognitivi, addirittura per dare consigli agli utenti o ai cittadini per migliorare le loro vite, quanto questo, diciamo, rispetterebbe i diritti, la privacy e la libertà dei soggetti secondo voi? Rispondi qua, poi dice questo lo siamo. Ah, ok. È una bellissima domanda ed è molto complicato. Io sono molto a favore dell'uso di big data, diciamo, per usi pubblici, però devono essere regolamentati in un certo modo, cioè ci vogliono dei certi criteri di trasparenza, ci vogliono certi criteri di interoperabilità dei dati, cioè devono poter parlare tra di loro, devono essere comprensibili nella pubblica amministrazione. Chiunque abbia lavorato con una pubblica amministrazione sa benissimo che è il problema, perché ci sono i cosiddetti silos di informazione, no? Cioè ogni amministrazione pubblica ha il suo modo di conservare i dati, ha il suo linguaggio per conservarlo, ed è molto geloso, perché è una cosa che sanno fare, hanno già fatto, non hanno voglia di perdere tempo per imparare una spada diversamente, d'accordo, fondamentalmente, no? Quindi tutto questo va molto bene se c'è insieme un movimento forte per l'open data, per la trasparenza dell'opinione pubblica, della gestione pubblica dei dati. Questo sono molto d'accordo. Dopodiché, naturalmente, il problema diventa come controllare cosa lo Stato fa con quei dati. Perché se quei dati lì diventano invece la base per un sistema di sorveglianza massiva, ma non soltanto dell'Italia, ma delle Bahamas, per capirci, che per capirci è un'ipotesi che sembra far ridere, invece gli Stati Uniti lo facevano, forse lo fanno ancora, d'accordo? Cioè controllavano tutte le comunicazioni di interi paesi, così a caso. Quindi se si può fare, si fa, no? E questa è un po' l'idea di questa cosa dell'instabilismo, no? Visto che si può fare, si fa. No. Avevamo le armi atomiche e ci siamo fermati un attimo prima, no? Però, diciamo, voglio dire, sono stati 20-30 anni di sconvolgimenti per questa cosa, per cui io sì, sono molto a favore, e dopodiché bisogna ragionare molto. Ci sono dei modelli, per esempio il modello della città di Barcellona, si viene in mente, che ha fatto un enorme ragionamento su cosa significa una città intelligente che rispetta prima di tutto i diritti dei cittadini che la abitano. Grazie da un'italiana. Da un'italiana, Francesca Bria, che è bravissima, che lavora come assessore, non so come si dice più in questo termine, di, diciamo, in questo mondo di strani, e quindi sì, all'innovazione a Barcellona, e lei ha scritto vari testi, rilasciato varie interviste su come provare a creare un manifesto per, diciamo, una città intelligente che però, in cui però i dati sono, addirittura loro parlano anche di sovranità tecnologica, quindi lì c'è anche un discorso di geopolitica, se volete, cioè non, i dati non escono da certi confini, rimangono entro certi confini e vengono gestiti secondo le regole di quel territorio. Quindi altro discorso, naturalmente, su cui potremmo parlare per mesi, ma affascinante, prego. Ha già risposto lui. Il libro in questo ha un difetto, nel senso, a un certo punto ne parlavamo con voi prima, questa è una collana per cui deve essere massimo 120 pagine, sono arrivato a 140, e nell'ultima parte volevo proprio affrontare invece il tema pubblico, e invece lo cito nell'ultima parte, dire questo è un altro tema importante, ovviamente è fondamentale, nel senso che c'è tutto un pezzo di politiche pubbliche che hanno ovviamente grandissimo bisogno di utilizzare i dati per tanti scopi. Però questo mi permette di fare una battuta che a un certo punto faccio un po' rivisitando alcune teorie economiche, e cioè il motivo per cui Adam Smith si inventa la mano invisibile e il mercato che funziona benissimo è perché la mano invisibile in realtà è quel soggetto che ha tutte, per qualche strano motivo, ha tutte le informazioni di ciascuno di noi, e quindi permette a uno che vuole comprare un certo bene e che ha una certa disponibilità a pagare, e un altro che vuole produrlo a un certo costo, li fa incontrare. Allora, secondo Smith il mercato funziona bene perché permette di rivelare informazioni disperse. Ma quel mercato, quell'ideale liberale di mercato, funziona perché quelle informazioni sono pubbliche, cioè sono osservabili da tutti gli altri sul mercato. Allora, la principale obiezione che io faccio alle grandi piattaforme quando rubano, tra virgolette, la retorica del libero mercato e di riduzione di costi di transazione, che attenzione, quella roba lì funziona dal punto di vista teorico perché il bene informazione prodotto dal libero scambio produce un bene pubblico, cioè un'informazione che è pubblica, ovviamente, quindi può essere osservata da tutti e utilizzata al meglio. Non è esattamente il caso. Non è che il fatto che il pubblico possa usare significa che tutti possiamo sapere tutto, ma è il concetto dell'appropriabilità dell'informazione come bene pubblico per finalità pubbliche. Va benissimo che lo facciano anche i privati per finalità private, però l'efficienza del bene informazione richiede che a un certo punto non sia più esclusivo. Persino la proprietà intellettuale a un certo punto deve scadere, secondo gli economisti, nel tempo, perché ex post diventa efficiente che sia un bene pubblico. Quindi ci sono due aspetti: l'uso dei dati per la definizione di politiche pubbliche, ma anche l'idea che a un certo punto non ci debbano essere monopoli privati di informazione così forti, talmente forti, che sono anche più forti degli stati nel capire come si comportano i cittadini. Questo, solo se posso aggiungere una cosa, questo è l'ultimo passaggio cruciale, perché tantissime città, non avendo le competenze, non avendo le tecnologie, non sapendo come fare, comprano soluzioni che hanno in mano da soggetti privati. bisogna capire, molto probabilmente ci sono delle economie di scala, molto probabilmente prendere il cloud di Google è molto più sicuro che prenderlo di un cloud qualunque, perché ci sono delle tecnologie, hanno delle prassi, l'università fanno così, sì, per l'università prendono, però vuol dire che tu stai fondamentalmente facendo transitare i tuoi dati per quei tipi di server, e poi se scopriamo che come con l'NSA che toglievano l'SSL, cioè la cifratura in transito, di modo che potessero prendersi quello che volevano, beh, insomma, no? Meglio sapere, per quello parlano di sovranità tecnologica, perché lo costruiamo noi, lo facciamo noi, i principi sono i nostri, i dati restano qua. Fine. Allora, i nostri relatori sono stati così esaurienti nella risposta a una domanda però veramente cruciale, quindi vi ringrazio, che non abbiamo più tempo per altre domande. E quindi io li ringrazio, e vi ricordo il titolo del libro, Big Data, di Marco Del Mastro, Antonio Nicita. Grazie ad Antonio e anche a Fabio Chiusi. Vi consiglio di leggere Fabio Chiusi quando scrive, perché è una salvezza, insomma, avere questa voce in questo mondo un po' di racconti dominanti su tutti questi temi. Grazie ancora. Grazie. Grazie a voi.